ed infine alcuni temi dai tre tempi della sonata per pianoforte e violino di Enrico De Angelis Valentini. Al piano l'autore, violinista Eligio Ciriani. Siamo certi che questi brani vi hanno dato, cari ascoltatori, la misura della fecondità artistica degli autori e della tecnica e sensibilità musicale degli esecutori.